Siamo ora al telefono con un'altra compagna che fa parte di questa rete a livello nazionale, Donne contro i CIE. Eccoci. Ciao. Ciao, ciao a tutte. Ciao. Allora, ciao. Da Bologna, che cosa state organizzando a Bologna? Dunque, a Bologna ci saranno due iniziative. Una in realtà è un'iniziativa organizzata dagli e dalle studenti che occupano da anni un'aula scienze politiche, la famosa aula C, perlomeno famosa da queste parti. Hanno organizzato per venerdì 26 nel pomeriggio alle 17 una giornata proprio sulle lotte, sulle pratiche di lotta contro i CIE, e noi saremo all'interno di questa iniziativa a presentare il dossier glossario sulla lotta con Joy. Questo anche in previsione appunto del 2 dicembre, che, come immagino abbiate già abbondantemente detto, è la data dell'udienza preliminare di Vittorio Adesso. E poi invece domenica 28 c'è una iniziativa che abbiamo organizzato insieme ad altre compagne bolognesi, ed è un'iniziativa che apparentemente sembra lontana, diciamo, da questa settimana di mobilitazione per arrivare al 2 dicembre, ma in realtà invece ha una stretta attinenza. L'iniziativa si intitola Non in Ermi ma in Armi e vuole essere una riflessione sulle donne armate nella resistenza antifascista, a partire dalle parole di Anna Zangrandi, che era appunto una bolognese, tra l'altro, che fuggì da questa città, nel senso che non la sopportava, e se ne andò in Cadore, dove divenne una partigiana combattente, e si incazzò molto quando poi diciamo i comandi dell'esercito partigiano la mandarono a Padova a fare la staffetta. Anna Zangrandi ha scritto un importante diario dove riflette su di sé e su altre donne e appunto sulla resistenza, e una compagna ha messo in musica le riflessioni di Anna Zangrandi, quindi ce le proporrà, e ci sarà un'altra compagna che ha fatto proprio una grossa ricerca, che è stata poi la sua tesi di laurea in storia, sulle donne combattenti, mettendo in discussione la teoria che siano state le poche feroci, come sono state definite da un'altra storica che è Anna Bravo, e cercando invece di dar valore a questa scelta. E diciamo che questa sarà un'occasione per riflettere sulla nostra resistenza oggi, perché intorno al 25 novembre si parla molto della violenza che le donne subiscono, ma si parla anche poco di come uscirne senza delegare alla polizia, alle forze dell'ordine, ai tribunali queste violenze. La nostra capacità di mettere in piedi pratiche di autodifesa. Esatto, e però è anche importante discutere di questo, perché spesso quando si affronta questa discussione finisce sempre che ti senti dire che comunque l'autodifesa è una forma di violenza. No. Allora, noi siamo dalla parte delle donne che si ribellano, e che si ribellano contro gli uomini che le opprimono e che cercano di violentarle, e che le opprimono anche nella quotidianità, e non per nulla siamo state dalla parte di Joy, e come abbiamo sempre detto, lei non ha subito un tentativo di violenza, ma ha respinto un tentativo di violenza. Certo. Ed è questa la logica con cui vogliamo essere anche il 2 dicembre sotto il Tribunale di Milano. Però ecco, è importante aprire questa riflessione, questo non è che, diciamo, un primo passaggio. Non in ermi ma in armi, ci piace. Esatto. Ci piace, anche questo potrebbe diventare una maglietta, Si parlava prima con le quasi, compagne. Quasi. Quasi quasi. Quasi quasi, sì. Credo che andrebbe tantissimo. No, anche perché, se posso aggiungere una mezza cosuzza, purtroppo, per quanto il 2 dicembre appunto sia la data vicinissima di questa udienza preliminare, in tante cose che ho letto su iniziative del 25 novembre, ovviamente salvo le cose che hanno scritto le compagne di Roma e poche altre compagne, di violenze poliziesche non si parla, eppure ci sarà un poliziotto in tribunale a rispondere di questo. Per cui, ecco, evidentemente c'è qualche difficoltà ancora, ed è bene affrontarla immediatamente. Sicuramente ragione. Allora, noi intanto ti ringraziamo molto e a presto. Buone iniziative. Hasta sempre. Non in armi, ciao, ma in armi. Ciao. Ciao.